Il cielo in una frase di Filippo Di Giacomo e di Alessandro Chiappini, il nostro regista, e Riccardo Silvi, il nostro redattore, sarà anche della nostra guida per questo cielo provvisorio, guida che questa settimana è Ascanio Celestini. Benvenuto. Bentrovati. Di Ascanio Celestini segnaliamo Lotta di classe, è un romanzo pubblicato da Einaudi. Quattro personaggi che vivono dentro un condominio fuori dal raccordo anulare. Ne parleremo ancora, anche perché nella quarta di copertina troviamo un interrogativo che, diciamo così, sembra niente ma è molto profondo. Chi ha detto che il tempo è denaro? Un filosofo, un banchiere o un orologiaio? Ascanio. Chi l'ha detto? Ma guarda, se lo chiedono questi personaggi, se lo chiedono più di una volta, nel senso che lavorano in un call center, 3 su 4, perché sono 4 capitoli, ogni capitolo è una sorta di monologo, che più che una voce è proprio il pensiero, un pensiero a rotta di collo, insomma, di questi personaggi che pensano per digressioni. 3 su 4 lavorano in un grande call center che esiste davvero, che è il più grande in Italia, uno dei più grandi in Europa, si chiama Tesi e sta a Cinecittà, appena dentro il raccordo anulare, quello, mentre appunto loro, come diceva lei, vivono appena fuori e lavorano a tempo, lavorano a cottimo, però nel tempo. Sotto i 20 secondi questi operatori di call center non guadagnano soldi, da 20 secondi in poi incominciano a guadagnare qualcosa, ad un minuto hanno totalizzato 30 centesimi lordi, a 2 minuti totalizzano 60 centesimi lordi, a 2 minuti e 40 arrivano a 85 centesimi lordi, oltre 2 minuti e 40 non guadagnano più soldi, per cui tendenzialmente tutti cercano di tirare la telefonata fino a 2 minuti e 40, dopodiché chiudono, anche se il cliente, insomma, magari poteva stare al telefono meno o c'aveva bisogno di restarci per 4, 5, 6 minuti. Per cui il loro tempo è denaro solamente all'interno dei 2 minuti e 40 secondi, anzi è denaro da 20 secondi a 2 minuti e 40 secondi. E questo vale anche quanto telefono per quelle proposte promozionali, tipo così: abbiamo pensato a lei per una straordinaria carta di credito che costa il triplo e produce... Quelli lavorano outbound, cioè fanno telefonate. Invece questi lavoratori di questo call center di cui parlo lavorano inbound, cioè ricevono la telefonata. In realtà poi il mondo del call center è assolutamente variegato, vario, insomma, per cui ci sono posti dove sono assunti a termine, posti dove sono interinali, per cui cioè, lavoratori in affitto. Ma chi si è inventato sto girone infernale della modernità? Ma questo è un po' come nelle grandi istituzioni totalizzanti, insomma, non c'è uno che l'ha pensato, ma c'è un meccanismo che a un certo punto si autoalimenta e si mangia tutto, insomma, tutto cade, finisce là dentro, un buco nero in qualche maniera, dove appunto il tempo viene schiacciato. Certo che più che pensare chi se l'ha inventato per davvero, diciamo oggi sarebbe più pratico e più concreto capire chi ci guadagna, insomma. E sicuramente non ci guadagna la maggior parte delle persone che ci cadono in quel buco nero. Ci guadagna qualcuno, diciamo, politicamente, perché diciamo ci vende questo stato delle cose come l'unico possibile, insomma. Ci dice: ma il lavoro deve essere flessibile, o meglio, fortunatamente di flessibilità se ne parla un po' meno adesso, perché si è capito che è una presa in giro, insomma, e trasforma tutti questi lavoratori in una sorta di liberi professionisti, tant'è vero che spesso in un call center i lavoratori sono assunti a progetto, come se fosse un progetto fare e ricevere telefonate in un call center. È un po' come se diciamo è un progetto fare il muratore in un cantiere, non è un progetto, cioè è la missione stessa dell'azienda, insomma, come fare pizza in una pizzeria, costruire tavoli e sedie in una falegnameria. Però in questo modo tu trasformi i lavoratori in tanti ostaggi, perché il loro contratto scade continuamente, perché più lavorano e più guadagnano, teoricamente, insomma, però non è sempre così, e quindi stanno, diciamo, sono mansueti, sono gestibili, sono molto più buoni. Tra l'altro, diciamo, di Ascanio Celestini conosciamo soprattutto il suo ruolo di attore teatrale, scrittore, drammaturgo italiano, ma qui avete capito, dovremmo anche accettare la sua formazione antropologica, perché tra l'altro ci sta dicendo anche delle cose che, tradotte poi in un linguaggio meno diciamo così estemporaneo, ci sta praticamente avvertendo che la grande distinzione con cui in una repubblica democratica fondata sul lavoro avevamo catalogato il nostro agire sociale in coloro che subivano la locatio operum da coloro che invece operavano con la locatio operarum, insomma, cioè la distinzione tra lavoro subordinato e lavoro autonomo, che è stato, per così dire, il binario di una società che poteva anche non piacere, ma permetteva anche un'interazione tra classi, perché il figlio di un operaio poteva diventare libero professionista e viceversa, un libero professionista poteva poi avere la sfortuna, tra virgolette, di ritrovarsi figli operai, insomma, dentro comunque delle categorizzazioni anche giuridiche, su cui sapevamo tanti diritti, tanti doveri. Certo. Invece adesso stiamo nell'indefinito antropologico e di conseguenza entreremo anche in un indefinito giuridico. Ah sì, questo sicuramente, ma tant'è vero che appunto in questo grande call center che si chiama Tesia, dove sostanzialmente la politica pura tradizionale dei partiti e dei sindacati non entra quasi mai, sono dei luoghi dove i lavoratori non sono sindacalizzati, ma proprio il sindacato spesso non c'è, anche perché lì dove noi troviamo tutti i lavoratori precari, troviamo lavoratori che non votano per i rappresentanti sindacali, e quindi spesso i sindacati rappresentano se stessi e non i lavoratori, anzi il rappresentante sindacale rappresenta il sindacato più che i lavoratori. E adesso qualcosa è cambiato in questo grande call center, alcuni altri call center qualcosa è cambiato, perché grazie anche all'impegno, insomma, di un gruppo di lavoratori che si sono auto-organizzati, il collettivo Precaria Tesi, hanno fatto una denuncia, ha fatto questo collettivo all'ispettorato del lavoro, questo nel 2005 dopo l'ennesimo licenziamento. E l'ispettorato del lavoro, dopo 13 mesi, dopo una lunga ispezione, non soltanto ha dato ragione ai lavoratori dicendo sì, cioè se un lavoratore svolge mansioni da lavoratore subordinato deve essere assunto come lavoratore subordinato e deve recuperare tutti i suoi diritti, insomma, per cui 13 mesi di età, malattia, ferie pagate, gravidanze. Ma la cosa interessante, secondo me, il dato politico interessante, e anche il motivo per cui ho scritto questo libro, ho raccontato una storia di persone più che una storia politica, invece, perché chiaramente è raccontata in termini diversi da come stiamo parlandone adesso, è che se tu vivi una questione, se tu c'hai un problema, la prima persona che se ne deve occupare sei tu. Poi se ne occuperà anche il tuo partito, non lo so, il tuo sindacato, la tua famiglia, il tuo condominio, non lo so. Però la prima persona che se ne deve occupare sei tu. E questo è appunto il motivo per cui io parlo dei personaggi e non ho scritto, diciamo, un saggio di politica o di economia o di antropologia, che forse non ne sarei stato in grado. No, poi tra l'altro è interessante anche vedere, perché capita nei romanzi italiani trovare nomi che sono molto evocativi, che sono un protagonista maschio che si chiama Folco, oppure una signora protagonista donna che si chiama Ginevra, o... Invece no, i personaggi di Lotta di Classi a Scagno Celestino si chiamano Marinella e Salvatore, Nicola, lo dico proprio come si dice nella città che ce l'ha come patrono, e la signorina Patrizia. Cioè, sostanzialmente, forza di immaginarci personaggi così più o meno letterari, dimentichiamo che ci sono dei personaggi veri che vivono già nella quotidianità, cose che potrebbero essere appunto racconti e romanzi, e purtroppo costituisco il nostro quotidiano. Sì, ma io tutto questo lavoro in realtà nasce da... Io nel 2005 ho incontrato questi lavoratori di questo call center, che è un posto che conosco, diciamo, abbastanza bene, nel senso che non ci ho lavorato io, perché io sono stato precario in un altro settore, che è quello dello spettacolo, insomma. Però ci ha lavorato metà delle persone che vivono nella mia borgata, che si chiama Morena, che è più o meno il posto dove sta questo condominio, ci lavorano molte persone che io conosco ancora, insomma, che frequento. Perché una delle prime interviste che ho fatto a questi lavoratori mi hanno detto: ma sai, quanti realmente hanno lavorato in questa azienda non possiamo saperlo, 10.000, 15.000, insomma. E questo lavoratore mi ha detto: è un po' come le grandi tragedie, no? Il numero preciso non lo sapremo mai. E effettivamente un po' questo accade a me oggi. Io qualche anno fa, ormai quasi 10 anni fa, ho fatto uno spettacolo sulle CIE delle Fosse Ardeatine, e ancora oggi mi capita, rifacendo, riportando in giro questo spettacolo, di incontrare persone che mi dicono: mio nonno è morto alle Fosse Ardeatine, oppure mio nonno conosceva uno che era morto alle Fosse Ardeatine, piuttosto che qualcuno che era presente nei dintorni di Via Rasella quando c'è stata l'azione partigiana. Cioè quella storia è così importante che comunque ha coinvolto tante persone, e tante altre persone ne sono venute a conoscenza, e mi capita la stessa cosa su questo, sul call center. Continuamente incontro persone che hanno lavorato in questo call center, o che conoscono persone che ci hanno lavorato, o che comunque hanno lavorato in un call center, e questo rifà capire quanto la precarietà non è legata tanto e soltanto al lavoro. La precarietà è proprio una condizione che oggi le persone vivono, e non i giovani, perché poi bisogna capire anche fino a quando uno resta giovane, ma insomma è una condizione che tu vivi per il lavoro che fai, per la casa in cui abiti. Insomma, a Roma uno studente paga anche 400-500 euro per affittare una stanza, e quindi quando tu hai difficoltà a trovare un alloggio, quando invece di fare un lavoro precario ne fai tre, perché molti di questi lavorano magari come cassiere al supermercato part time, so part time anche al call center, e hanno magari un altro contratto per lavorare in birreria la sera. Quindi quando incominci a fare due, tre lavori, quando hai problemi per trovare la casa, quando quindi non riesci a mettere su una famiglia, che tu la voglia o meno, insomma, vedi che la precarietà non è il lavoro. La precarietà è una condizione umana alla quale ormai siamo abituati e diamo per scontato che sia così, e cerchiamo e ci arrabattiamo, come si dice a Roma, però non riusciamo a venirne fuori. Ma non è che poi in fondo tutto questo ci giriamo intorno, no? Non abbiamo molto il coraggio di dirlo, ma stiamo precipitando, viviamo già dentro una società che è diventata quasi diciamo, cinica, una società che sfrutta qualunque situazione pur di far soldi, però diciamo così, stiamo dentro un circuito che ci porta a qualunque aberrazione, perché quella degli studenti è terribile, perché in fondo riconoscerci dei difetti una volta che uno ha superato il capo dei 50 anni, ma prendere quello che poi è il frutto del nostro sistema sociale, del nostro sistema sanitario, dei giovani 19-20 anni che vengono a Roma per l'università e spremerli come limoni per mettere in condizione poi di incominciare già a vivere la precarietà prima ancora di arrivare a pensare, a immaginarsi un progetto di vita. Questo rimanda a un vissuto sociale, insomma. Sì, ma sai, però poi in realtà te ne raccontano, diciamo, questo stato delle cose, diciamo, te lo raccontano come non è possibile. Non è possibile un altro, cioè questa è la società, prendila come puoi, insomma, magari sarai fortunato, per te andrà meglio, ma non soltanto nei lavori come appunto la cassiera del supermercato, che nessuna cassiera probabilmente è felice di fare la cassiera del supermercato o l'operatore del call center. Questo te lo raccontano anche, non so, per i giornalisti o nel settore dello spettacolo, no? Sei sottopagato, e però ti dicono: ma in fondo questo è quello che volevi fare tu, no? Non volevi fare il giornalista? Allora scrivi, dai, fai il giornalista, goditela, no? Questa passione. Beato te che ci sei arrivato. Però poi la condizione è la stessa. Sì, questo magari è detto da un giornalista che in base ai contratti degli anni 80 guadagna 7.000 euro al mese per non fare nulla. E magari detto a un giornalista che scarpina tutto il giorno e che scrive un articolo per 30 euro. Anche meno, anche meno, cioè, no? Anche se un giornale dove guadagni anche meno, insomma. Ma la stessa cosa accade spesso in due lavoratori che poi svolgono... Poi magari quelli dai contratti vanno pure in televisione a fare gente di sinistra. Sì, sì, è possibile. Il cielo in una frase, di Filippo Di Giacomo. Chi ha detto che il tempo è denaro? Un filosofo, un banchiere, un orologio? Questo ci siamo chiesti con Ascanio Celestini, attore, scrittore, drammaturgo italiano, ma anche autore di Lotta di classe, un libro di racconti, un romanzo. Un romanzo? Un romanzo pubblicato da Einaudi, lo trovate in libreria, un libro molto bello anche da leggere durante l'estate. Questo quindi era il nostro divagare precedente, Ascanio. Sì. Da dove partiamo questo secondo periodo di cielo che ci è dato? Ma non lo so, voi mi avete detto di portare anche una frase, io me la ricordavo come frase, in realtà è una storiella più che una frase. Bertrand Russell, ma insomma non devi mettere paura il nome del filosofo. E me la so trascritta ed è questa: fin dal primo giorno questo tacchino osservò che nell'allevamento dove era stato portato gli veniva dato il cibo alle 9 del mattino, e da buon induttivista non fu precipitoso nel trarre conclusioni dalle sue osservazioni, ne seguì altre in una vasta gamma di circostanze, di mercoledì e di giovedì, nei giorni caldi, nei giorni freddi, sia che piovesse che splendesse il sole. Così arricchiva ogni giorno il suo elenco di una proposizione osservativa in condizioni le più disperate, finché la sua coscienza induttivista non fu soddisfatta ed elaborò un'inferenza induttiva come questa: mi danno il cibo alle 9 del mattino. Purtroppo però questa concezione si rivelò incontestabilmente falsa alla vigilia di Natale, quando invece di venire nutrito fu sgozzato. a me fa pensare un po' quello che la condizione che viviamo adesso. Giorno dopo giorno ci viene, diciamo, prospettato uno scenario che è un po' sempre lo stesso e alla fine prendiamo per buono quello che ci viene detto. Cioè, quando chi studia comunicazione sa cos'è l'agenda setting, cioè io non posso convincerti o costringerti a votare per Berlusconi, per esempio, però visto che te ne parlo tutti i giorni, alla fine tu penserai sempre a lui. E questo accade adesso nelle ultime notizie che ci abbiamo rispetto alle sue frequentazioni, insomma, giovanili, e alla fine parliamo sempre quello. Anche in questo momento, infatti, la prima cosa che mi viene in mente è quella, anche se teoricamente non me ne interesserebbe davvero niente, insomma. E alla fine, se noi pensiamo sempre alle stesse cose, le altre piano piano scompaiono. Invece dovremmo fare proprio questo esercizio di memoria, diciamo, dovremmo raccontarcele le cose, riraccontarcele, un po' come quando una persona si canta una canzone, una vecchia canzone, no? Ed è la sua canzone, ed è la sua identità. Se continuamente ci presentano altre forme di identità rispetto alla nostra, alla fine la nostra c'è. Ce la dimentichiamo. Io lo predico spesso in chiesa, e anche se poi vedo normalmente gli occhi dei fedeli aprirsi o divagare verso i lampadari, però me lo sono messo in testa, e fino a quando non trovo almeno tre persone che condividono questa opinione continuerò imperterrito a dire che i valori non esistono nell'aria, che un valore è sempre la risposta a un bisogno. Per cui quando ci si presenta in giro dicendo io difendo i valori di questa o quella scuola di pensiero, diciamo così, il piazzista sta vendendo certamente patacche, perché se, diciamo così, fossero valori non ci sarebbe bisogno di venderli, sarebbero già nella risposta oggettiva. Dico sempre, volete vedere qual è il valore dell'integrazione? A posto di sentire quello che dicono in Parlamento, andate a guardare i mercati rionali e quelli del centro-sud Italia. Certo. Fino a 10 anni fa erano tutti italiani, adesso vedete gli arabi, gente di altre nazioni che fanno esattamente lo stesso mestiere, con lo stesso camioncino, fanno gli stessi gesti, vendono la stessa mercanzia e nessuno si meraviglia. Quella è una legge promulgata, è una legge rispettata quella. Quindi in realtà quando vanno così a parlare di valori, e si dimentica che forse tutto il discorso della perdita di valori è legato al fatto che nessuno riesce a essere fedele alla propria memoria. Cioè non si capisce che modello di famiglia costruire, perché nessuno si ricorda che memoria di famiglia è stata trasmessa attraverso il succedere delle generazioni. Non ci si ricorda, non si capisce quale sia il senso valoriale dell'onestà, perché nessuno si ricorda, diciamo così, della testimonianza di onestà che nella famiglia o nella, certo, società in cui si è vissuto. Cioè, non si pensa al senso, diciamo così, della fatica o dell'impegno, perché nessuno si ricorda la fatica che facevano, che so, i nonni o gli zii o i papà contadini fino agli anni 50 e 60. Cioè, se appena avessimo memoria ancora di quando mamma ci faceva le maglie coi ferri durante l'inverno, per, certo, dire, prima di pensare alle griffe, forse avremmo anche un valore diverso. C'è questo tradimento della nostra memoria. Io in questi giorni ho fatto un laboratorio a Frascati, un laboratorio convegno spettacolo che è durato 3 giorni, e piuttosto faticoso ma interessante, e abbiamo affrontato una serie di argomenti insieme alla rivista Micromega, insieme al settimanale Carta, e abbiamo parlato di impegno teatro, impegno politico, abbiamo parlato di testamento biologico, abbiamo parlato di documentazione militante, di tutti quei gruppi auto-organizzati che cercano di fare inchiesta su se stessi, cioè di comunicare quello che sta accadendo, no? Nottav, piuttosto che Nod al Mulino, a Vicenza, eccetera. E nel laboratorio c'era un ragazzo belga, e nipote di italiano, e lui era venuto qualche anno fa, io l'ho incontrato, era venuto in Italia per imparare l'italiano, peraltro è andato a Milano perché vorrà incontrare Dario Fo, lui insomma, è un attore, e lui ha raccontato una storia, e in questa storia la storia terminava dicendo: in genere la prima generazione dei immigrati subiscono, la seconda generazione dimentica, e la terza o seppellisce del tutto la memoria o è quella che recupera una memoria, no? Cioè se la terza generazione non viene recuperato qualcosa, probabilmente è perso per sempre o quasi per sempre. Ecco, noi viviamo in un paese che tutto sommato ha perso questa memoria. Ormai siamo arrivati alla terza, alla quarta, alla quinta generazione. I nostri immigrati sono ormai una storia piuttosto vecchia, insomma, e per cui non, quando ci ritroviamo davanti le stesse facce che si trovavano i tedeschi qualche decennio fa, o gli svizzeri, o gli inglesi, o gli americani, quelle facce che sono le stesse nostre, tutto sono dei nostri bisnonni o dei nostri nonni, non le riconosciamo. Però rispetto al discorso che faceva sui bisogni, c'è una gran confusione. Quali sono i bisogni? Quali bisogni ci abbiamo oggi? E per questo abbiamo confusione sui valori. Perché? Perché tra tanti, diciamo così, una lista di ogni possibile bisogno, poi in realtà non abbiamo la risposta, perché... Perché di cosa abbiamo bisogno? No? Marx diceva che il capitalismo, no, nel momento in cui soddisfa un bisogno, ne inventa subito un altro. Se io compro una bibita gassata, qualunque, un pacco di pasta che ha un nome, un prodotto qualunque del supermercato, e sopra c'è, per tornare al discorso anche del mio libro, insomma, del call center, e sopra c'è un numero verde, ma io per quale motivo dovrei telefonare a un pacco di pasta, a una bibita gassata? Io non ce n'ho nessun bisogno. Però nel momento in cui mi viene servito quel numero, io alla fine telefono. Magari telefono, come capita appunto in questo racconto, perché sono un maniaco squattrinato, non ho soldi per telefonare a un numero erotico, e quindi telefono a quel numero lì che è gratuito, sperando di trovare una voce femminile. E dall'altra parte, se c'è una donna, resterà al telefono per 2 minuti e 40 secondi, perché in quel tempo lei guadagna dei soldi. E sarà lì e dirà porcate al telefono al maniaco zozzone squattrinato che non c'aveva soldi per telefonare un telefono erotico. Per cui ma ce n'avevamo bisogno. E quindi, rispetto al discorso che faceva lei, quali valori da questi bisogni indotti vengono fuori? Questi bisogni di cui non abbiamo nessun bisogno. Però l'altra cosa interessante era proprio questa: se vogliamo vedere l'integrazione, andiamo nei mercati. Ma cioè, andare e vedere è la prima cosa che noi dovremmo fare. Io, quando ero giovanotto, insomma, studiavo all'università, mia nipote, che adesso c'è una figlia, ma insomma, al tempo era piccola, e gli dicevo: dico, Marta, ma che cos'è il mare? No? E lei mi diceva: il mare è acqua. E dico: un bicchiere d'acqua? Lei diceva: no, zio, di più. Dico: una bacinella? E lei mi diceva: adesso ti do il biglietto dell'autobus e vai a Ostia, che non è precisamente il più bel mare, insomma, del mondo. Però diceva: ecco, questo dice il filosofo, non chiedermi cos'è il mare, ma vai al mare. E la stessa cosa con la cioccolata, insomma. Lei mi diceva: beh, allora ti do un pezzo di cioccolata, adesso apriamo l'uovo, perché era Pasqua. E dico: appunto questo, non dirmi cos'è la cioccolata, ma fammela assaggiare. Cioè, io solo con l'esperienza conosco. Non c'è un'altra possibilità. Poi, per approssimazioni, io che non ho mai visto il mare, mi poi dico: guarda, è come una maschera a bagno, ma molto di più. E se ti guardi intorno, vedi solo quello, solo acqua. Però veramente ho capito cos'è il mare? Probabilmente no, insomma. L'unica possibilità è l'esperienza. Ascanio Celestini, Lotta di classe, romanzo, e Einaudi, in libreria. Grazie. Grazie a voi. Grazie a voi tutti. Grazie Alessandro, grazie Riccardo. A risentirci.